24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il dibattito sugli Eurobond in vista della presentazione del pacchetto di proposte che la Commissione Europea varerà domani. La Germania ha già frenato, non sono una cura miracolosa, fa sapere Berlino. Resta intanto ai massimi livelli l'allarme sul contagio della crisi del debito sovrano, male le borse in apertura di settimana, mentre la Grecia si presenta col nuovo governo a Bruxelles. La Spagna guarda al dopo Zapatero e l'Italia inizia oggi il roadshow nelle capitali europee col neo premier Monti. Oggi vi parleremo anche del problema della disoccupazione giovanile e di un regolamento comunitario sulle etichette alimentari. È aperto dunque in Europa il dibattito sugli Eurobond, su cui la Commissione presenterà proposte operative mercoledì sotto forma di Stability Bond. Per il Presidente della Commissione Barroso, dotare l'Unione di Eurobond è un'opzione che ha senso una volta che si è raggiunto un certo livello di convergenza delle politiche economiche e finanziarie. Poi la frecciata, i bond sono necessari perché i governi comunitari non hanno rispettato i propri impegni. Barroso ha inteso così rispondere alle critiche tedesche arrivate sulla base delle prime indiscrezioni trapelate circa i piani della Commissione. Gli Eurobond non sono una cura universale per la crisi, ha sostenuto il portavoce della cancelliera Merkel, che ha aggiunto: introdurre Eurobond potrebbe impedirci di combattere il problema della crisi alla radice. Pessima apertura di settimana intanto per le borse sui timori di un declassamento della Francia. Chiusura in profondo rosso, appesantite da bancari e industriali. Parigi e Francoforte hanno ceduto il 3,1%, mentre a Milano il FTSE MIB ha perso il 4,74%. Lunedì nero per le borse europee, che pagano l'allarme di Moody's sul rating francese e chiudono in profondo rosso, depresse dai titoli bancari e industriali. Parigi e Francoforte ieri hanno così ceduto oltre il 3%, mentre Piazza Affari, che ha scontato anche uno stacco cedole che pesa per lo 0,57%, ha visto il FTSE MIB in ribasso del 4,7%. Tra le blue chip il peggior titolo è l'Automatica, meno 7,7%, che ha scontato le preoccupazioni su un'imposizione fiscale delle vincite da giochi, perdite superiori al 7% anche per Popolare Emilia Romagna, mentre Finmeccanica ha pagato la nuova bufera giudiziaria cedendo il 6,6%. Un unico titolo sopra la parità, Campari, che prosegue nel rialzo di venerdì e si conferma in positivo da inizio 2011. Ciò Condina da Radio Corp e Radio 24 e Sole 24 Ore. Lo spread BTP Bund ha chiuso ieri sotto i 480 punti base, con il rendimento dei 10 anni italiano al 6,66%. Il differenziale tra i titoli decennali di Francia e Germania è a 155 punti, mentre quello dei bonus spagnoli è a 463. La Grecia deve dare applicazione al programma di riforme per poter rimanere nell'eurozona, così il premier ellenico Lucas Papademos, dopo un incontro con il presidente della Commissione Barroso. Restare nell'euro è la nostra unica opzione, ha affermato Papademos. Sono molto fiducioso che la Grecia rispetterà gli impegni assunti con i partner, così il presidente della Commissione Giuseppe Barroso. Barroso ha detto di essere stato riassicurato da Papademos sull'impegno e la determinazione della Grecia. E dopo lo tsunami elettorale di domenica, che ha registrato in Spagna un trionfo senza precedenti per il Partito Popolare e una debacle storica per i socialisti del PSOE, i vertici dei due grandi partiti iberici sono stati convocati a Madrid per una prima analisi del voto, mentre i piccoli schieramenti esultano per il successo conseguito grazie anche al travaso dei voti in fuga dal PSOE. Rajoy dovrà aspettare fino al 20 dicembre per assumere la guida del paese, tenendo conto dei tempi tecnici per la costituzione del Parlamento. La stabilità di governo iberico è dunque sicura, sottolinea Antonio Villafranca, responsabile area Europa dell'ISPI, ma non è una garanzia di riuscita. Sentiamolo al microfono di Laura Bettini. Quello che va rilevato è, da un lato, il fatto che il Partito Popolare abbia ottenuto la maggioranza assoluta e, dall'altro, la crescita della frammentazione. I socialisti hanno perso molti seggi, molti di questi sono stati spostati verso quella che è la sinistra estrema, l'Izquierda Unida o verso Amaiur, che è il partito indipendentista basco, che addirittura ha superato il partito nazionalistico basco. Ma in ogni caso questa frammentazione non dovrebbe coincidere su quella che è la stabilità del governo, visto che appunto il Partito Popolare ha avuto la maggioranza assoluta. Quello che però i mercati attenderanno ovviamente sono le risposte che la Spagna appunto dovrà dare, perché se è vero che da un punto di vista politico la situazione si stabilizza, da un punto di vista economico la situazione della Spagna è comunque molto preoccupante, non soltanto per quanto riguarda riguarda la crescita, ma anche per quanto riguarda il debito, quindi non vedo la Spagna necessariamente messa meglio rispetto ad altri paesi cosiddetti periferici dell'area euro. L'Italia resta sotto osservazione nell'Unione, inizia oggi il tour europeo del neopresidente del Consiglio, Mario Monti. C'è molta attesa qui a Bruxelles per la visita che il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Monti, effettuerà domani con incontri alla Commissione e al Consiglio. Il cambio di governo a Roma, con l'arrivo al potere di una compagine tecnica appoggiata da una larga maggioranza, è stata accolta con favore dalle autorità comunitarie. Finora la Commissione ha avuto nei confronti dell'Italia un doppio messaggio. Da un lato di fiducia per Mario Monti, un ex commissario europeo, dall'altro continuando a fare pressioni sulle forze politiche perché introducano misure per risanare il bilancio e rilanciare l'economia. L'esercizio di equilibrismo, che dovrebbe proseguire anche domani, non è facile perché si tratta di tenere l'Italia sulla corda senza minare la credibilità del nuovo primo ministro. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione hanno ricevuto dal governo ungherese una richiesta di sostegno finanziario di tipo precauzionale. Lo ha annunciato il direttore generale dell'FMI, Christine Lagarde. L'Europa sta gradualmente facendo progressi e la posta in gioco per gli Stati Uniti nella soluzione dei problemi europei è grande, così il segretario al tesoro statunitense Timothy Geithner. Voltiamo ora pagina, lasciamo l'economia. I giovani italiani in cerca di lavoro impiegano più tempo dei loro coetanei europei a trovare occupazione. Lo rileva Il Sole 24 Ore. Sentiamo. Faticano il doppio rispetto ai coetanei stranieri per trovare spazio nel mercato del lavoro. I giovani italiani alla ricerca di un'occupazione restano in panchina a lungo, oltre un anno nel 44% dei casi, secondo un'elaborazione del Centro Studi Data Giovani per Il Sole 24 Ore in edicola oggi. L'handicap degli under 25 fa precipitare il nostro paese al penultimo posto tra i 33 stati OCSE, prima della maglia nera assegnata a Lussemburgo. Il mercato è invece più aperto ai giovani nei paesi scandinavi. Danimarca e Olanda svettano nei confronti internazionale, seguite a breve distanza dal Canada. Nel ranking dei paesi OCSE la Germania è settima e l'Inghilterra quattordicesima, mentre Francia e Spagna sono nella parte bassa della classifica. Francesca Barbieri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. У любителей боев без правил большой праздник. E l'uomo che tenta di parlare in mezzo a questi fischi è, pensate, Vladimir Putin, premier russo per la prima volta contestato in pubblico al termine di un incontro di arti marziali a Mosca vinto da un atleta russo su un americano. Molti commentatori tentano di spiegare l'accaduto e sostengono che le contestazioni non fossero rivolte al premier. Certo è che la TV pubblica russa ha ripulito il filmato dei fischi nella replica dell'incontro. Etichette alimentari, oggi arriva il regolamento comunitario e i paesi europei hanno tempo 20 giorni per adeguarsi. Siamo tutti più uniti in Europa di fronte alla spesa grazie all'etichetta alimentare, per così dire unica, e cioè valevole per tutti i paesi membri, introdotta dal nuovo regolamento comunitario sulle etichette alimentari, a differenza delle direttive, immediatamente recepito anche nel nostro ordinamento. Così Primo Mastrantoni, segretario ADUC, elenca le indicazioni obbligatorie. L'identità dei prodotti alimentari, la loro composizione, le caratteristiche nutrizionali, la loro origine, la loro utilizzazione sicura, cioè la durata, l'impatto e i rischi di conseguenze nocive sulla salute. Le informazioni dovranno essere facilmente leggibili e comprensibili per il consumatore, stampate in caratteri di almeno 3 mm. Diventa obbligatoria anche l'etichettatura nutrizionale. Il valore energetico, la quantità di alcune sostanze nutritive che rientrano nella composizione, per esempio i grassi, gli acidi grassi, i saturi, i carboidrati, con specifico riferimento a due elementi fondamentali che sono gli zuccheri e il sale. Tracciato anche il paese di origine per la carne suina, ovina, caprina e il pollame. La bovina è già stata normata dopo lo scandalo della mucca pazza. Non avremo più scuse per non pensare a salute e sicurezza, basta una lettura. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.